Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dei libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Maria Cecilia Guerra della Finanza Pubblica Italiana, il rapporto 2009 dedicato allo stato dei conti pubblici e in prospettiva alla possibile evoluzione del federalismo fiscale. Parliamo ora con Alfonso Gianni. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi. Con Alfonso Gianni del suo libro Goodbye Liberismo, la resistibile ascesa nel neoliberismo e il suo inevitabile declino, edito da Ponte alle Grazie. Alfonso Gianni è stato deputato tra il 79 e il 2008, quindi a lungo all'interno del Parlamento, prima nelle file del Partito di Unità Proletaria, poi in quelle del Partito Comunista, ha lavorato anche alla CGIL e da ultimo ha ricoperto l'incarico di sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle politiche industriali nel governo Prodi. Quindi un uomo di sinistra e guarda al quanto sta avvenendo, quanto è avvenuto negli ultimi mesi con la crisi finanziaria globale, la crisi economica attuale, e ne trae una malcelata soddisfazione nel dire goodbye liberismo. Certamente, chiaramente il titolo è una metafora scherzosa di un altro titolo che era Goodbye Leninismo, forse qualcuno lo ricorderà, e quindi quasi per tigne e per ripicca io dico Goodbye Liberismo. Naturalmente mi riferisco in particolare, come sottotitolo chiarisce, al neoliberismo, cioè a quella dottrina economico-politica che si è affermata con von Hayek, von Mises, con la Montpelerin Society, è stata poi implementata da Ronald Reagan e dalla Margaret Thatcher, e che direi ha dominato questa trentennale fase di globalizzazione. E la mia tesi è che la crisi attuale è una crisi dell'economia reale, poi amplificata dalla finanziarizzazione del sistema economico, ed è una crisi nel quale vengono al pettine i nodi di questo tipo di sviluppo economico che non potrà essere più riproposto, a mio parere. Ecco, quindi è un tipo di modello economico, non è tanto una critica complessiva al liberismo, al capitalismo. Lei nel libro ogni tanto ricorda il libro di Giorgio Ruffolo, Il capitalismo ai secoli contati, che è un modo di dire che il fatto che il modello capitalista indubbiamente ha qualche crisi, però in sé per sé è qualcosa che, almeno con molte correzioni, secondo lei potrebbe continuare a reggere lo sviluppo del mondo. Ma io naturalmente nella parte finale del libro cerco di dire che bisognerebbe superarlo, questo capitalismo. Mi rendo però conto che esso non può essere superato da un colpo di reni, da un semplice movimento rivoluzionario come è accaduto nel Novecento. Richiede una trasformazione più lunga e più profonda. In questo senso, con ogni probabilità, anzi con ogni certezza, il capitalismo mi sopravviverà. E quindi mi piaceva questo titolo di Giorgio Ruffolo, Il capitalismo ai secoli contati, che dice due cose: che appunto il capitalismo sarà ancora lungo e subirà diverse trasformazioni, ma come tutte le cose nel mondo è destinato a un certo punto a finire. Ecco, ma in un certo senso è chiaro che lei per esempio intitola un capitolo del suo libro Il tramonto delle magnifiche sorti progressive, riferendosi anche qui con ironia, no? Con esplicita ironia anche al liberismo, che si pensava che potesse avere uno sviluppo sempre di crescita, sempre di maggiore successo, e invece ha rivelato di avere più di un tallone d'Achille. Ecco. In questo senso però resta il fatto che anche il cambiamento epocale, anche le rivoluzioni nella storia non hanno mai avuto dei benefici effetti sui popoli che hanno vissuto queste rivoluzioni. Beh, naturalmente questa è una controversia storica molto interessante, non è il centro del mio libro, mi piacerebbe se fosse il centro di un mio libro futuro, se mai ci riuscirò, perché allora, come dire, spingerei l'autocritica fino in fondo. La verità è un po' più complessa. A mio parere il valore della rivoluzione russa del 1917 non può essere oscurato dai suoi insuccessi successivi, nel senso che è stata, direi, l'irruzione della storia nella storia delle esigenze, dei bisogni delle masse di un popolo intero. È stato un processo di cambiamento molto rapido che ha portato un paese che era ai limiti della marginalità economica al centro dello sviluppo mondiale, anche se di un certo tipo di sviluppo. Poi questa esperienza, si è liquidata da se stessa: la mancanza di democrazia e di libertà, la paralisi burocratica, l'insistenza su modelli produttivi puramente quantitativi ha portato alla fine della fiera questi processi rivoluzionari alla sconfitta, e naturalmente poi sono stati sconfitti ancora più gravemente i modelli che imitavano il modello originale. Ora, a mio parere, non si può ripartire nella maniera più assoluta dal Novecento, bisogna avercelo alle spalle, comprenderlo bene, non buttarlo via, perché la storia ci insegna a non buttar via mai niente, anche gli errori sono preziosi, persino gli orrori, a condizione di non ripeterli più, è proprio per questo che sono preziosi, e però insomma, si tratta anche di capire che un modello di sviluppo basato sul trittico basse retribuzioni, precarizzazione del lavoro, privatizzazione dei beni pubblici dello Stato sociale, che sono i tre assi portanti del neoliberismo, con l'aggiunta di una finanziarizzazione senza scrupoli che induce peraltro l'incremento del debito privato, è un sistema che porta ugualmente allo sfacelo, e quindi questo sistema va ripensato. Ecco, lei nel suo libro, per esempio, esamina la stessa realtà americana e mette a confronto due modelli di impresa, la General Motors da una parte e la Walmart dall'altra, l'industria automobilistica che con salari, se non alti, perlomeno medi, permette di formarsi di una classe media che poteva sostenere i consumi, e invece un modello come Walmart in cui prevalgono i salari bassi, in cui non c'è il sindacato e in cui si afferma una sorta di nuovo proletariato. Quindi anche un modello General Motors di un'impresa, appunto, come diceva in fondo già Henry Ford, che bisognava dare degli alti salari ai propri operai perché potessero comprare le automobili Ford, lei lo giudica positivamente? Beh, certo, questo è il tipo di correzione che il sistema è chiamato a fare, non so se riuscirà a farlo, questo è il problema. In ogni caso non riuscirà a farlo producendo le stesse cose di prima. La General Motors aveva creato una classe praticamente media. Per fare un esempio, chi ha visto il film Gran Torino, il personaggio di Clint Eastwood è esattamente quello, un operaio di Detroit che è in grado di avere una buona pensione, di avere una casa, di avere un giardinetto, può dire di far parte di un ceto medio, quantomeno piccola media borghesia americana. Oggi invece il centro del sistema economico americano è rappresentato da Walmart: A, un'impresa non produttiva ma di distribuzione; B, un'impresa che non pratica e non accetta i diritti sindacali e pratica bassissimi salari ai suoi lavoratori nel mondo; C, un'impresa che offre merci a bassissimo prezzo per permettere salari bassi nel proprio paese, tenendo conto che paga il lavoro fatto all'esterno a prezzi bassissimi. Ora, questo tipo di modello è un capitalismo che perde spinta propulsiva, creativa, innovativa, e difatti entra in crisi. Allora, il punto non è ritornare agli anni 60 alla vecchia General Motors, questo è impossibile. Il punto, casomai, se vogliamo rimanere su Obama, è la green economy, cioè pensare al fatto che un'economia mondiale si possa sviluppare facendo dell'ambiente, delle fonti rinnovabili, del rispetto delle culture e delle relazioni umane, il volano, non più il limite, non più la vittima, ma il volano di un nuovo modello di sviluppo. Ecco, questo mi pare il grande problema che sia la destra che la sinistra hanno di fronte su scala internazionale. Sì, indubbiamente il problema dello sviluppo è un problema che dovrebbe andare oltre le divisioni ideologiche, soprattutto in una fase come questa. Ecco, Alfonso Gianni, lei mette poi in conclusione del suo libro, e mi sembra giusto data anche la sua esperienza, mette la centralità del lavoro, ritornare a dare al lavoro una propria dignità, e questo è uno dei punti forti? Sì, naturalmente per lavoro va inteso il lavoro nella sua complessità, quindi il lavoro intellettuale, il lavoro manuale, il lavoro produttivo nella produzione diretta, il lavoro che è ugualmente produttivo nel settore dei servizi, cioè il lavoro moderno, non il lavoro delle miniere o appunto o anche quello della catena di montaggio, che sono modelli evidentemente sorpassati. Però o noi valorizziamo il lavoro dal punto di vista, diciamo così, della sua collocazione sugli ideali gradini dei valori di una società e conseguentemente lo paghiamo in senso giusto, dignitoso, che permetta a un lavoratore di autosostentarsi senza dover arrampicarsi sui vetri dalla mattina alla sera, oppure se non facciamo questo, se non stabilizziamo il rapporto di lavoro almeno per l'essenziale, beh, avremo sempre un'economia estremamente fragile, un'incapacità di acquisto, di soddisfacimento dei bisogni e dei desideri, quindi una scarsa domanda, e quindi avremo un sistema perennemente in condizioni di assoluta instabilità finanziaria, come del resto dimostrò il grande Ayman Minsky. Ecco, in 30 secondi è possibile arrivare a una globalizzazione sostenibile? È possibile a condizione che ci sia la pace, che è fondamentale, con la guerra non si costruisce niente, che si creino degli organi di governance democratica a livello mondiale incentrati sull'ONU, che si stabilisca un nuovo modello di sviluppo fondato sulla difesa del pianeta e poi lo si articoli a livello complessivo. Vasto programma, come si vede, ma vale la pena di sperarci, altrimenti la nostra vita diventerà una tragedia. Certamente, vale sicuramente la pena di lavorare in questa direzione, ovviamente anche con ipotesi diverse, confrontando opinioni diverse, tenendo conto anche di giudizi diversi sulla realtà del passato, però conoscere anche il passato e avere dei giudizi è sicuramente un passo da compiere per cercare di andare avanti e per avere questi giudizi la lettura del libro di Alfonso Gianni, Goodbye Liberismo, la resistibile ascesa del neoliberismo e il suo inevitabile declino, edito da Ponto alle Grazie. Il prezzo è di 16,50 euro, e siamo in un'economia di mercato e anche i 16,50 euro servono a compensare l'autore e l'editore. Le pagine sono 350, ma si leggono con molta attenzione e con molta facilità. Ripeto, è un'analisi attuale sulla realtà e sulla storia del sistema economico capitalista e non. Grazie ad Alfonso Gianni, grazie a quanti ci hanno seguito.